Ciao, va. Ciao Fabrizio, mi servirebbe un controllo. Ma di radio di segnale, Fabrizio? Ciao Robè, aspetta un altro parlantino. No, non di segnale, mi serve se senti il bip oggi. Se sento? Il Roger bip. Sì, sì, già si sente. Polizia municipale al museo, tutti quelli che sono ascolto, se magari sono di passaggio al museo di Roma, c'è la musica. Che è questo? Oh, non lo so, adesso lo fai entrare. No, io ero giusto, devo andare a mangiare roba. Stavo facendo una prova per un finto di montare questo Roger Bitti. Quindi la scheda ecco è come l'abbiamo più o meno regolata l'altro giorno. Adesso devo lavorare sulla parte finale, sul doppio modulatore. Era giusto per vedere, perché doveva aver problemi quel Roger Bitti e l'ho sostituito. Via, perché no, il Bitti già funziona bene. Va bene, grazie Robè, ci aggiorniamo prossimamente, dopo non lo so, adesso mi sta chiamando mia moglie. Quando vuoi, io sono qua con Rix. Avanti l'amico che vuole entrare poi. Chi è che vuole entrare? Che avanti? Robè, io sono, mi sono appena tornato a casa. Adesso scendo giù a mangiare, ok? Adesso sto facendo roba, ho messo lo squelch, adesso ti ho sentito poco fa c'era Fabrizio, un attimino ha chiesto un controllo, ma sono 10 minuti in radio, allora. Buona cena allora, ciao. Grazie Robè. Ora c'è qualcuno qua sul 10? Ora. Ora. Ora. Ora. Ci c'è qualcuno? Beh, mangiato, ragazzo. Ho mangiato, Oh, mi ricavo i botti, sto un po' scendo giù a farmi la doccia, e da voi a nanna. Dura è stata oggi? Ieri molto dura. Oggi cos'è, lunedì o martedì? Ah, no, oggi è martedì, come se fosse lunedì. Martedì, ieri è stata molto dura. Anche perché non sto portando solo le bombole mie, sto portando anche le bombole di Servigas, con il via Civita Vecchia. E come va? Perché il figlio si è infortunato, non ve la fate travagliare. A me non mi pare vero, la verità. L'importante è che paghino, e poi, vabbè, c'è la fatica a riportarla. Ieri tra le nostre... quasi 50 ne ho portato da solo, tra le nostre e le sue. Quanto è il tuo record? Il mio record, ehi. Un capodanno mi hanno stanimullato da solo, a me e a babbo. Ma sto parlando tanti anni fa, sto parlando. Siamo finito quasi alle 10 di sera. Mi pare che non ci bussato, ho detto 40, non mi tendi più di brazza. Ti ha chiesto che palestra era tu? Quello è lavorare. Ma tu più ne porti più guadagni? Sì. Dove, sì. Mi dà un tot a bombola. Dove sto portando adesso? Capito. No, dico nel posto normale dove lavori normale. No, c'è la tariffa fissa. Sì, c'è lo stipendio fisso e buono, puoi portare 10 in un giorno, 50 abili sempre gli stessi su. Cappa. Poi per la rotta, e come fai, scusa un attimino, se tu stavi lavorando con quello là, col solito, a portare le bombe di un altro? Siamo noi che le facciamo a lui, capito? No, capito, no, ce lo devo dire, siamo uno che le faccio. Se lui ti chiama e ti riporta la bomba, la nome suo. Cappa, io praticamente lui mi chiama, ci chiama, guarda che ci sono consegne, passiamo lì in via Civita Vecchia, ci prendiamo i buoni, le bombole dal suo motocarro e le mettiamo sulla nostra, vado a dire consegno e poi li porto i vuoti. Ho capito, anche se non ho capito dove è via Civita Vecchia, boh, a che altezza è? Sì, cazzo, sono di Civita Vecchia. No, lo so dove è via Civita Vecchia, ma bombolaio non ne ho mai visto. Sì, vi sarà 40 anni, vi sarà in Chivi. Lì quasi a Rompetta, quasi per uscirci in via Tempio. Ho capito, dove c'è il bar, quel bar di lì, ho capito. Che è vicino, c'è la pizzeria Sandalia, cosa Marazzurfio, una sartoria c'è vicino. Ho capito dove, sì, c'è un po' di anni quel bombolaio lì. Sì. E quello che lavori tu lo stesso, ero un ragazzino io. E lo facciamo per lui, capito? Daniele consegna per lui, capito? A me mi paga però. e come paga lui il gasolio, la benzina, tutte queste cose. E alle convenia che c'è? Ma un grido di convenia. Sì, ma allora se ci deve essere anche il suo guadagno, lui porta la bombola, ti dà un euro, 10 euro, chi su che la bombola, e poi ti paga anche il gasolio. No, 10 euro la bombola te lo scordi. Ti darà, a me mi sembra, mi sta dando 4 euro a bombola. 4 euro sono una cifra così, 4 euro a bombola, o 3 euro, chi su che, e più deve pagare anche il gasolio al tuo principale. Ciappa. E la cosa guadagna, se la bomba per dire costa 30 euro, la tanto la bagaglia la bombola non gliela regalano. Già guadagna già. Quanto gli viene una bombola a lui, alla fonte? Se costa 30 euro, quanto la pagherà? 20 euro, non penso di meno. No, manco pare valle. Meno gli viene? Di più. E appunto, allora sto dicendo bene, se lui la vende a 30 euro la bombola, e lui la paga diciamo a 20 euro, deve dare 4 euro a te, lui deve dare il gasolio a lui, diciamo altri 2 euro, e lui cosa guadagna? 2 euro a bombola. Ah, sì, sente. A casa lui a casa la vende, la bombola a 15 la vende 38 euro. Le bombole di lì sono le bombole di lì. Per lui a casa la vende 38 euro. Da quelle lì toglie sono i miei, capito? Ah, se li fa pagare in più la bombola. No, pensavo che la consegna magari era un euro, non una cifra così alta. Ah, stai scherzando, un euro non vanno a travagliare. Cioè, già venga che è mancante, ma... No, così già riesce a recuperare. No, io pensavo, prendere la bombola costa 30 euro se vai a prendere, tanto la consegna, no, dagli altri 2 euro in più, ma in qualunque parte della città è sempre uguale il prezzo. Capa, vabbè, lui le vende così, noi le vendiamo un po' di meno, capito Roberto? Però è sempre quella cifra, Gli operai qui si chiesa così a bombola, guadagnano, mi sembra che li dà. Sono fatti così, 3 euro a bombola alcuni danno, dalle 3 euro ai 4 euro a bombola, poi per quella più grande li danno anche 4 euro danno, tra i 4 e 5 euro a bombola, quella da 25, quella grande. Se ne borsi già guadagni di là. Ma è portare, ma se devi portare una da 25 kg al quarto piano senza ascensore, già ti voglio vedere. Già cosa dite, pigliati da un di non tocca al sole, ti dite. Non te ne sono capitato a tempo di portare bombo da 25. L'ho fatto, io l'ho fatto, ma altri dicono di prendersela in culo. Già lo so, perché a 25 mi peserà 50 kg la bomba, no? Quando è pieno. Andiamo. Luca, è capa, sì. E pesa 58 kg, dipende. Tra 58 e 57 kg pesa. Luazzarda, amico. Io già ho fatto che sono macchine a portati, ero qua su piena fede. Una volta, ma non so tutti, no, che non fatene. Io lo so, te la lascio dalla macchina. Ciao Luca, avanti Luca. Ah, vai, ti ha tirato una picchiriola, ti dà. Sì. Se non sei allenato, duro, in umano, non te ne pensi da ruretto, non ti preoccupare. Che meccanino, ora. Se ti mettono a portare blocchetti tutto il giorno, già ti stanchi lo stesso. Già lo so, ma le bombole sono maledette, mi furo. Bisogna stare attenti con le bombole. E poi non è a farlo, no, devi conoscere tante cose. Ti dico, davvero a portare la bombola, sì. Tutti hanno detto così. Ma poi quando hanno compreso il travaglio per andare di capo, che devi anche devi conoscere anche le vie, devi conoscere tante cose, devi conoscere. Hanno detto, oh cazzo, hanno detto mamma perdona, hanno detto, no, che va a travagliare vero. Non lo so, infatti, ma tu la installi, la metti in funzione, tutto fai. Allora, tutto. E poi ne devi anche capire, devi capire cosa si vende. E quindi c'è anche una responsabilità, cazzo. Già lo so, mi sono prenotato per il corso, me lo sta facendo fare la Liquigas a me. Se ne me l'ha già prenotato. Bisogna poi avere tutte le informazioni sulla sicurezza e cosa, perché se ti dicono se succede un qualunque problema, come devi intervenire? Non è che butti acqua sulla fiamma. Capa, no, ma ti fanno fare anche un corso, ti fanno fare di informazioni, vabbè io gioco tutto. Non c'è neanche bisogno di presentare, è giusto per avere un coso in più, Io sono esperto oramai da tanti anni, ne gioco forse più di tanta gente che ci crede a sé questa cosa, perché la mia esperienza me l'ho fatta in tanti anni, sono di tutti e di più, purtroppo, meno male che ho imparato, perché devi conoscere anche le cose, ti si faccia flessibile e tu non lo conosci che è fasciato. Cioè quella lì perdere ci svuota la bombola e poi rompere i cattoli a te, per dire. O puoi mettere invece dentro casa, secondo cos'è, puoi mettere in pericolo qualcuno. Cioè se non conosci, se perde, se cosa. Ma tu, Anto, se tu vieni a casa mia, per dire, noti che il tubo del gas è scaduto, cosa fai? Te lo dico, poi stai a te, te lo dico che vuole cambiato. No, dico, non devi dare segnalazione a nessuno, glielo dice tu. Scappa, perché devo dare segnalazione? Poi se ti si fascia, cose sono cavoli tuoi, io te l'ho detto. Poi quando a me mi chiamano su, al vigile del fuoco, come è già capitato, gli spiego la ragione. Perché io me le ricordo tutte le cose, capito? Io me ricordo tutti di tutti. Se succede qualcosa, e io te l'ho detto, e poi ti ecco, no, sono cavoli tuoi, Perché se scoppia, allora tu vai a mettere la bombola a luci, e domani c'è una fuga di gas e scoppia l'appartamento, dici, tu hai messo la bombola, tu sei il responsabile che hai messo la bombola, tu gli hai detto, però dice, perché non sei intervenuto? Cosa devo intervenire io? Io te l'ho detto. Il mio roba se si ricatturi, ma c'è un'assicurazione pure. Se mi rompi molto le scatole, dico che la bomba non te ne ha attaccato, molto ci vuole. Come certi fanno. E che la sassa ne è scoppiata più di una di appartamento, anche ultimamente. Quello in via Principessa Maria, te lo ricordi? Perché quello in via Gorizia, quella zona lì, via Pruniceca. O in via Fermi, te la ricordi? E vabbè, quello in via Fermi era un altro discorso, lì credo che l'abbia fatto apposta il tipo. No. Sei Bagliente, sì, quella vicina al bar, appena piscio del bar, e quella è tutta sta roba nuova, sono erano clienti nostri, però siccome lei, la signora, abbiamo detto più volte, ma non l'ho piazzata io, ti dico la verità, quel periodo le portava a babbo. Quando è salito su gli ha spiegato le ragioni, cosa era successo. E lì allora all'epoca avevamo Ultragas e gli hanno pagato tutto, tutti i danni, capito? E cosa c'entra Ultragas o Sodigas eccetera eccetera? Se ti occupi già il coso, se tu per dire c'hai l'impianto hai lasciato il gas aperto. Allora quella volta lì è successo che la colpa era anche un po' loro, perché i vigili del fuoco hanno riscontrato che in poche parole c'è l'assicurazione, c'è. Usciva un po' di fuoco, ma deve essere come ti ha pigliato il fuoco, da sotto la bombola, capito? E gli hanno pagato i danni. Ma le bombole sono assicuratemi, hanno un'assicurazione. Non lo sapevo. Lo sai. Però nel secondo dei casi non ti pagano, perché se ti l'hai inviata da due e creato danno non te la pagano. E il coso, l'evaporatore di pressione, ogni quanto tempo si cambia? C'è la data, c'è. Anche quello, devo guardarlo il mio, lo sai. Sì, un po' di voce già. Io c'ho un sacco di anni, devo vedere adesso, mi hai messo la cuccia nell'orecchio. Ma a dirlo, no. In genere quelli si spaccano. Ma cosa hai? Che tipo di regolatore c'è? Quello che c'è il rubinetto sopra, che giri, tipo quello di Bussuri, staccato dalla bombola. Ma la centralina fuori hai? No, ho detto il portabombola a fianco al piano cottura, c'è il portabombola sopra. Col flessibile? Col tubo di mano, sì. Quello l'ho cambiato da poco. Vabbè. ogni tanto anche quello vuole cambiato. E adesso controllo. Puccia di gas non è sempre. Per esempio io la bombola ogni volta che la accendo chiudo sempre, non la lascio mai aperta. Fai bene. Però l'estintore non è grande, è piccolino, sempre vicino, non si sa mai. Ma ti conviene chiudere la bombola. Come si dice, ma volevo dire una cosa, ma è da pressa, ma è una rambasca, cosa volevo dire, grazie. Allora, comunque il tubo la maniera l'ho cambiato io, tanto ho attaccato il forno, un casino con le marina perché c'ha passa da sotto, poi c'è dovuto cambiare quello vecchio e poi mi tiro quello nuovo, comunque sei a posto, che scade nel 2024. Ah, è matto, beh, è matto. E invece delle quattro vite del forno lo sfili e poi un aggasino, beh. Ci vuole pazienza a me a farlo. E vabbè, l'ho fatto io, è la seconda volta questa. A casa mamma l'ho fatto io lo stesso. Quando uno riesce a fare di cose, non bialo si vattene, capito? Comunque la bomba bisogna chiuderla perché è molto pericolosa. E già Rubio, altro una domanda, tu stai cambiando le bombole sotto principale, ma se una avviene a casa mia, tu dici guarda che il tubo vuole cambiato, e tu dici sì, vuole, cioè, tu dici a lei che vuole cambiare, lei dice ma la cambia lei, e tu cosa fai? Lo vai a comprare tu o te lo fai con tu due? Ah, la compriamo e lo piazziamo, no? A conto della ditta sempre. Ah, a conto della ditta, no, pensavo te li facessi qualche lavoro così, a conto tu. A che cosa? Amici già glielo ho fatto. E se sono quelli che ne hai visto accanto al piano contura un rompimento di scatole? Allora, lì in genere tutti li muovono dopo in gomma, però non è così. In genere ci va il principio dell'acciaio con regolatore 4 kg l'ora, ci va tutta la roba per renderlo in norma. Nei piani contura il tubo in gomma in genere non ci andrebbe, capito? Tutti lo mettono, ma non andava. Ma pensavo il tubo quello flessibile lo metti solo se c'è le bombole fuori, per dire lontane dal servizio, da dove devi alimentare, per dire una caldaietta. No, il tubo flessibile per le cucine comporibili è una sciagosa. È quello giallo, è quello lungo. No, capito, tipo quello della doccia, della maschera da bagno, quello lì stai dicendo. Ah, è più forte, è diverso. Già te lo mando una foto come ha fatto, magari non li hai mai visto tu. Oh, e qualcuno non ti è capitato che ci ha messo i flessibili dell'acqua, per dire, dello scaldabagno a una caldaietta, ti è mai capitato? Già ci vici che cose, ma dal regolatore al coso, ma non lo vuoi punire, dalla bomba non lo potresti mettere perché c'è il passo al rovescio, non dirà attacchi. Ah, c'è anche da dire quello, se c'è il passo diverso. E a chi non lo sa che va il passo all'inverso. E io, e beh Luca, vai tu. E sto piazzando, mettendo una spina in una prolunga. Questa mattina l'ho utilizzata per un paio di mesi, devo fare un lavoretto. Adesso mi sto ripiazzando la spina. E io, c'è la partita mia adesso alle 9. Gioca l'Inter contro... lo Sheriff, il Milan contro... non me ne ammetto, ma due partite ci sono. E dove? Una la nuova canale 5, l'altra vabbè deve avere abbonamento. Ma è su Infinity mi sa che è l'altra. Eia, vabbè io già ho il satellite, me ne vado un canale straniero, di lì le danno tutte le partite, me le posso guardare tutti e due. Ah, ma anche la Serie A ti guardi lì. Anche? Anche la Serie A ti guardi. Sì, tutto quanto mi guardo. Senza pagare. Eia. Cavolo, buono. Vabbè, sono in lingua straniera, non avete lingua italiana. Quell'altro abbonamento che avevo, albanese, quello ti dà tutti i campionati, dal brasiliano, portoghese, inglese, spagnolo, italiano, te li dà. In lingua originale, per dire in Italia, ti dà in italiano e la lingua albanese. Se c'è in Inghilterra, ti dà inglese e in albanese. In Spagna, spagnolo, è bello per quello. C'erano tutte le partite, però quest'anno sono scaduti i diritti, devi farti con un altro gestore. Alla fine ha detto, non mi ne ha fatto nulla. Me ne vado in un'altra lingua. E me lo guardo tanto quando vedo la partita e non dicono i nomi dei giocatori, le commette non me ne ha fatto nulla. Infatti adesso ti che vedi il gioco, beh certo, vabbè satellite ci vuole, c'è una parabola particolare, certo. è una parabola più grande motorizzata, deve andare tutto dall'altra parte a 46 gradi, non sei sul tubo dove sono tutti quanti a 13 gradi, è più o meno al centro dell'orientamento, dai, centrale, il satellite centrale, il centrale è quello, quando vai dove dico io la parabola è quasi dritta, rimane verticale, se tu lo spostate c'è una parabola grande. Ho capito, ma attenzione, Uia, stavo leggendo una cosa, non vi ho capito. Cosa hai detto, Roberto? No, stavo parlando di che vanno le partite gratis. Ci sono dei canali stranieri che te le danno in chiaro, senza, in alta definizione, belle, si vedono benissimo, senza nessuna interruzione. Perché c'ho anche DAZN, ho fatto, però DAZN c'ha qualche problemino. Lo so, è un circolo virale. La ci ha fatto DAZN. La domenica mette le partite, mette. Beh, signori, adesso vado a guardarmi la partita e mangio qualche cosa. Dai, ci sentiamo in altra occasione. Ciao Antonio, ciao Luca e eventuali amici qua su canale 10. Ciao ciao. Ciao Robert, ci sentiamo alle prossime. Ciao Robert. Comunque oggi ho visto che un po' Gugliani mi si sono calmati là. Senta da Salavino. Capa, ma Purvento deve essere più furbo. Mi dispiace. Hai visto che oggi era Uccio, vera, Pierpaolo. Sto a posto, aveva pulendo a posto un mosso, sono combassato a pigliare una birra. Ma il posto adesso? Se lo sta piazzando. Che è che mi vorrei tu cittadinata? Ma con rimasto magà tutto, cazzo, ma quando io ho sentito certe cose mi sono portato le mani in capo, gli ho detto musi di mancante. Cioè, gente che vi dà più di 100 euro, ma come si fa? Ah, esatto, dico, se nasce un picco, se non nasce un picco, non mi pongo buffi uno, ma ti fate un po' di niente, no, non si può di chissi. Sempre pagato oggi io. Veramente incredibile lui. Con la niente non può andare in chi vive, è un lusso. Cioè, pigliare la bulla in mano, è un lusso, eh. È un lusso, ma devi pagare. C'è questo vizio. Vabbè, non è proprio un lusso comunque. C'è gente che si mette i buffi per bere. Grazie a Dio non ho mai avuto i problemi. Lo so. Per me è un lusso sempre, cioè se uno vuole andare, cioè una cosa di prima necessità è di comprare un piatto di massa, ti compri la carne per mangiare, ti compri il sugo, ti compri tante cose per mangiare, ma questo per me è una cosa extra. E vabbè, cioè, non è una cosa importante, quando si esce, no, vabbè, io non è che... Ripeto, non c'è, cioè, alcuni buffi, no, lo stesso, il locale, sì, via, sta molto bene quel locale, e praticamente devo pagargli una bottiglia di birra, poi avevo preso poi, 4 euro dovevo dargli comunque, non c'era il resto, aspettato un po', ho fatto un altro giro, poi gli ho portato il solito, ho pagato quello che ti devi pagare. Cosa hai fatto? Hai aspettato un altro po'? Mi ha fatto un altro giro. Ah, sì. Ah, certa gente è spudorata, fa queste cose, fa... Cioè, pur di bici la birra. Ah, fini in lira. Vabbè, comunque. E si sta bene, là, dai. Non fai un giorno un salto, Andrù. Se una passeggiata, se ne gana. Posso tranquillissimo, anche mi piace non un invaino. Io ti cerco di volare subito, Capito? Perché è un posto che casino non ne vogliono. Ma in via Sardegna? Esatto. Ma mi stavo parlando anche di questo di via Pugino, dice che è bello. Però c'è la Vanna Maria quello. No, ho capito. C'è la Vanna Maria, quello che c'è in via... Via la Marmola, lì la Tentazione. Se l'aveva preso lì in via Pugino. Prima ancora ce l'aveva più tutto. Lo so. Ah, si sta bene, lo so, è grande anche. Capa. Adesso vediamo, se non si compuscia già bene, emigriamo. Stiamo guardando i posti e faccio voler bene da tutti. sì, no, è utile che vado a fare, come fa molta gente a fare la nostra vagante, non è così, no? Lo so, come un po' niente stravagante in giro, beh, cosa si può fare? Già non so già come funziona. La gente si dovrebbe anche un po' calmare. Sì, la gente è convinta, però che si deve calmare. Molti clienti ha perso, molti clienti quella persona là. Non andava così. E non è facile di essere in un circolo, perché poi te ne arrivano da fuori ubriachi e ti fanno casino. Già, c'erano quelle ragazzine, e mi sa che hai fatto il volo del gabbiano. Grazie, per carità, va. Stavano esagerando. Se vuoi più, a 16 anni in giro si vive bene sopra alcolici, c'è più religione. Anche perché se la prendono con temi, non ne ha futti nulla chi se no. Cioè, se dentro dei carabinieri la cadì, cazzo se la c'ha pagato una batta in mano, cosa succede? Adesso i minori non possono manco entrare. Adesso non so come funziona. Cioè, se possono entrare, possono chiedere un qualcosa. E poi se magari lì, se l'ultimo si possono, se l'ultimo non possono stare, mi sa. Perché sono minorini. Cosa vuoi qua? Voglia. Intanto cazzo lì si ha poi schiacchio di giro. Qua ci sono riuscito. Casino. E così è altro. Fa un casino, nel posto è un casino, poi basta uno sguardo un po' così, vale, dipende da come fai gli sguardi alle persone, direi ti baci. Non va più bene che c'ha storia, no? Cioè, se l'avrei avuto io, cioè, che sul circolo queste cose non ci sarebbero state, perché... casini no. Già, lo trovi sempre il bastardo che ci fa casino. Già non vedi voi si ramicono ma te si cazzo. Inizia una bella serata, poi alla Vini, poi alla Vini, triste. A fare casini fanno la gente. No, ma non va a divertirsi a fare casino, ma non per le palle uno all'altro, capito? E via. Io non funziona così. Non funziona, poi trovi quello fuori di testa e non è la futtinuta e ti va di male, molto male. Però la gente ci prova, diciamo che tante volte è successo che questa volta hanno fatto un casino nero, c'era questo karaoke un sabato, tutto bene, ma un po' di gente, no? C'era questo qua che stava mangiando le semenze e tutta intera li ha buttati, buttava la cucina in terra. E l'ha fatta apposta sicuramente. E allora cosa è successo? Era di tu. Quella stava convinto, la stava facendo bene, stava buttando la cucina in terra. Quindi ha fatto un casino ha fatto. Una valigia in mezzo già a fumi, un casino. Tutte le bottiglie che c'erano sui tavolini, mezzo vuote, cioè quasi vuote, là, tutte intere rotte, un casino. Poi è andato, visto, se sei forte non vai a prendere una mazza da bispo, un bastone ha preso. E poi ha fatto la fiva di merda. È successo? E all'inizio, dai, 3, 4, 5 anni fa. Ma dove è successo? Al monte. Già, danni a fini chi si fa dei fini bei a fattene. Infatti capi non ci si comporta così. Uno sta lavorando, uno spende soldi. Sono i soldi della SIAE. I soldi per pagare gli operai che stavano lavorando lì. Poi il gruppo che fa karaoke, ma c'è anche il gruppo sassanese, cioè le spese ce ne sono, capito? Non so lui, però questa gente è qua, ma moccami, moccani un po' come. Ma Maurizio, ma ti manda via subito? Non so, ti picchia pure. Ma detto non ti picchia, manda via subito. Poi se ovviamente fai insiste, allora sì. Io non so di uno che l'hanno picchiato forte un giorno. Arriva tu, beh, pure se l'ha meritato. Chi sei mancante, non ne ha fatto nulla. E poi ci alzano anche i fratelli, è un casino. Non è mancante, e lui è lì, è bravo, Maurizio è un amico. è in gamba veramente, per me, come si comporta bene? Se si è guardato bene, quando vado è andata bene. Cioè, un giorno è successo che c'era uno che stava facendo karaoke e gli ho prenotato la canzone, cazzo, mai mi toccava a me, mai, mai, poi mai, ah, uscì, allora mi sono lamentato e gli ho detto, stava aspettando il mio turno, e ho detto, vabbè, io sono andato a salutare, tu me ne sto andando perché tanto ci scoglioni, ecco, e lui ha detto, mi dispiace, non ci ho guardato. Ho consumato, noi stavo consumando. Si addormenta un aino. Ascolta, devo fare il bianco un attimo. Ci sentiamo dopo, ok? Sì, fai. Luca, ci sei? Luca,